La borsa di Zazà era all'altro capo della grande sala, posata sulla scrivania. Quella che chiamavano la scrivania, un'ex credenza da office di Peach Pine che serviva a Zazà per mantenere una parvenza d'ordine tra i libri e i quaderni dei bambini. La credenza scrivania, come il doppio lavandino murato lassù nel bagno senza vasca adiacente al corridoio, era stata comprata a un'asta a Grenoble, dove erano scesi tutti un giorno del 1938 in camioncino con Marcel, l'operaio del sindaco. Era la vendita a liquidazione di un vecchio albergo, il Metropole, e per un boccone di pane, con la stessa partita, si erano portati via una poltrona di cuoio consunto e la brutta grande lampada a torcera montata su un passo falso di vite da torchio, tinto con il mallo di noce e con una cappella di falsa pergamena dal bordo dorato. Avevano cercato di barattarla sul posto con degli asciugamanici frati HM, ma non aveva funzionato e Miriam aveva detto che tutto sommato la lampada non era poi così orrenda e Robert le aveva detto che se la sarebbe potuta prendere come regalo di nozze se mai sposava Samy. Per intanto la facevano funzionare, illuminava bene e da allora c'era rimasta. Dal Natale del 1938, o meglio, dal periodo tra il Natale del 38 e il gennaio del 39, l'ultimo in cui si erano ritrovati tutti insieme al convento. Salvo Ginot, naturalmente, ma si erano vietati di parlare di Ginot al convento. Samy ammattiva e loro lo volevano felice, anche lui voleva essere felice, e Miriam ancora più di lui. Era stato così che nella cameretta, dietro la porticina, mentre tutti gli altri dormivano nel dormitorio una notte, Miriam e Samy avevano fatto Lulù. A Natale, in una mangiatoia e sotto la neve, e con la nostra benedizione, aveva scritto Robert da Le Havre, in una lettera a Samy in cui disquisiva sull'annuncio fatto a Miriam Goldberg. Maurice guardò un'ultima volta il disegno e richiuse la borsa di Zazà. Era una borsa che si portava a tracolla di un bellissimo Pecari, con delle cuciture a vista fatte a mano, un modello creato per Lancel che Elia aveva regalato a Zazà per i suoi 18 anni. Maurice la vedeva tutti i giorni sulla credenza, quella borsa. Era patinata adesso, Zazà non ne aveva altre. Maurice gliela vedeva tutti i giorni, ma non la toccava mai. La dolcezza e la morbidezza della pelle lo sorpresero. L'avvicinò alla lampada e con il dito seguì i punti lasciati nel cuoio dal lago del padre. Il filo bianco, che un tempo era apparso così elegante, era diventato invisibile sotto lo sporco degli anni, dei viaggi. Ascoltò il silenzio di fuori, quello della camera dormitorio, della camera di Zazà. Riposò la borsa sull'incerata bianca e si sprofondò nella poltrona, ma si rialzò subito per andare a cercare sotto l'acquaio una grande bottiglia per tre quarti, piena di un liquido trasparente. Se ne versò un fondo in una tazza, prese con sé la bottiglia, la posò accanto alla borsa di Zazà, si risedette nella poltrona, beve una sorsata ed esaminò attentamente le proprie mani. Era sempre così che cominciava quando non poteva addormentarsi né leggere e di notte scendeva nella grande sala per rimanervi da solo. Però ora era sempre più raro. Era diventato raro che non prendesse sonno. Le giornate iniziavano presto, l'aria era pungente, il lavoro ininterrotto. Ma quando succedeva di nuovo cominciava sempre così. Si sedeva, contemplava le sue mani da carpentiere e muratore e beveva a piccoli sorsi l'acquavite del paese. Non scendeva per bere di nascosto, beveva per pensare di nascosto. Era un'abitudine che aveva preso per ragioni di sopravvivenza dalla sera in cui Zazà gli aveva detto che non voleva più condividere con lui le sue piccole Madeleine avvelenate. Le aveva addirittura chiamate Kugloff di Praga e la cosa aveva fatto ridere Maurice. Era accaduto qualche mese prima, una sera a tavola. Dopo che aveva raccontato ai bambini dell'occhio di vetro del dottor Pierre, bruscamente Zazà si era alzata da tavola. Si era messa ad attizzare furiosamente nella cucina economica inserita nel caminetto e aveva lasciato cadere quell'allusione la cui preziosità in bocca sua era quantomeno sorprendente. Maurice l'aveva complimentata per la sua erudizione e le aveva chiesto dove e da quando avesse avuto l'occasione di leggere Proust e Kafka. Lei aveva alzato le spalle e aveva fatto ruotare l'indice destro sulla tempia destra, suscitando l'ilarità dei bambini. Ma Maurice se l'era tenuto per detto. Zazà si era accorta di essere incinta, non voleva contrariarla, e da allora compiva in solitudine quei pellegrinaggi nella propria memoria. Zazà si sbagliava quando pensava che si abbandonasse alla dilettazione morosa. Era ben altro quello che gli succedeva quando si accingeva a quei tuffi che ormai controllava alla perfezione, come un palombaro sa che ritroverà intatti i tesori di cui il giorno prima ha verificato la posizione esatta, ma che non ha nessuna voglia di riportare alla superficie, giacché quei tesori non sopravviverebbero all'aria aperta. Maurice controllava le sue discese e la grappa di Marcel gli procurava quel tanto di ebbrezza che bastava per sentirsi leggero e quasi allegro. La sua prima felicità, quando arrivava in fondo, era di constatare che era ancora in grado di sentire le voci dei genitori, non i loro accenti, il suono, il timbro delle loro voci. Sapeva che quel miracolo non sarebbe stato eterno, paventava il momento in cui non si sarebbe compiuto più e sorrideva riconoscente e sollevato nel constatare che quel momento non era ancora venuto. Solo allora giocava con le immagini, ma non disordinatamente. Si sceglieva un tema e si vietava di trasgredirne le frontiere. Poteva essere, per esempio, la rappresentazione di tutti i vestiti che aveva visto indossare ai genitori a tutte le età della sua vita, fin dal più lontano ricordo. Li contava, poi quando ne aveva dimenticato uno ricominciava da capo, perché omettere un vestito voleva dire saltare una data. I vestiti nuovi si accompagnavano sempre a una data importante. Gli capitava anche di esitare, soprattutto per gli abiti da donna. Non sapeva più se fosse Sonia che rivedeva con un vestito a fiori azzurri in questo o quella circostanza, perché si prestavano spesso le loro cose. Allora approfondiva la sua indagine come un segugio ostinato che cerca indizi ed evidenze, allinea i corpi del reato. Le immagini erano impregnate dell'odore di pelliccia e di tannino a cui si mescolavano il profumo del sapone, dell'acqua di colonia e gli odori delle pietanze, delle minestre, dei dolci, quello delle tisane, degli impiastri senapati, della tintura di iodio, del sapone nero e della cera e tutti i rumori di ciascuna delle porte, quelle del secondo piano come quelle di casa Bonnet. Il rumore che ritrovava meglio era quello della spranghetta della moscaiola della cucina, posta proprio alla sua altezza quando era piccolino, mentre gli era difficile risentire quello della moscaiola della cucina Bonnet, che serviva da armadietto da bagno. A lui e a Robert, anche se vi si erano chinati tutti i giorni negli ultimi anni. Quando qualcosa si sottraeva, come quella spranghetta di casa Bonnet, insisteva. Si vedeva rifare gli stessi gesti che avrebbero dovuto restituirgli i rumori che normalmente provocavano. Quando era tutto inutile, ne era molto deluso. Si diceva che li avrebbe trovati la prossima volta e si versava di nuovo un fondo di acquavite. Perché sapeva che ci sarebbe stata una prossima volta, un'altra cerimonia segreta che si sarebbe conclusa anch'essa con l'immagine, quella che adesso giungeva e alla quale non sarebbe sfuggito. Era follemente allegra. C'erano Sonia, Elia, Olga e Stepan al finestrino di uno scompartimento di un vagone cuccette di seconda classe e ridevano tutti e quattro e il treno stava per mettersi in moto. Sonia portava un cappello di paglia blu con una guarnizione bianca come il colletto bianco della sua camicetta ripiegato sul tailleur blu. Olga sfoggiava un berretto di velluto posato un po' di lato, una piccola piuma nera e lucida lo traversava sul davanti e il colletto della sua camicetta azzurra era chiuso sotto la giacca del tailleur nero. Erano leggermente truccate, le mani inguantate di cotone bianco lavorato all'uncinetto erano posate sul bordo del finestrino abbassato. Una minuscola macchia di rossetto faceva come una goccia di sangue sull'indice di Olga. Dalle loro braccia pendevano i manici di pelle nera delle due borse fatte a mano nuove di zecca. Dietro di loro, Elia e Stepan tenevano le loro mogli per il collo. Elia aveva una cravatta marrone, Stepan una cravatta blu a righe bianche. Le loro camicie erano immacolate e nel movimento che facevano per sporgere i loro visi tra quelli di Sonia e di Olga, le imbottiture dei loro doppiopetti grigio scuro risalivano comicamente sulle spalle. «Attenzione al Cahor, ragazzi, dà la testa!» aveva gridato Maurice. Erano le 20:05 alla Gare d'Austerlitz e il Paris Cerber, che si era messo in moto, Era atteso alla stazione di Cahors per le 4:33. Era il 13 marzo 1939. Dopo c'era un buco. L'acqua era talmente glauca, i fondali talmente fangosi, che Maurice non vedeva più niente e cominciava la sua lenta risalita. Oppure, con un ultimo sorso di grappa, si ripassava l'ultima immagine, poi quella di un po' prima. Le settimane precedenti, poi il giorno, l'ora, il minuto prima della partenza del treno. Immaginava tutto quello che sarebbe potuto accadere perché quel treno non partisse. O se doveva assolutamente partire, tutto quello che sarebbe potuto accadere perché loro non lo prendessero, mentre lui, Zazà, Alex e perfino Ginette Clément per telefono avevano fatto proprio di tutto per convincerli a salirvi. Un così bel viaggio, una così bella festa. Perfino Félix, per quanto non gli piacessero i Mercier, aveva detto qualche parola da Neuilly-le-Real per vincere l'esitazione di Sonia. Forse era demagogico, ma era generoso, non si poteva rifiutare. Allora si erano preparati, i bei tailleur, i cappelli, li aveva fatti tagliare Alex e dalla signorina Agnès in persona e loro erano andate a provarli a Chateaubriand come delle artiste portate in macchina da Gromov e invitate prima a pranzo da Raymond e André alla tavola della Copé, dove Stepan le aveva presentate a tutti quanti, tranne che alla signorina Agnès che non pranzava. Poi le aveva lasciate. Voleva approfittare dell'ora per andare a comprarsi il suo bel vestito sugli Champs-Élysées. E lì aveva comprato il suo sui boulevard. Ed ecco che senza consultarsi, senza saperlo, si erano comprati lo stesso vestito. Buffo, no? Comunque era troppo tardi per cambiare. Sono bellissimi questi vestiti, aveva detto Maurice quella domenica, la domenica prima della loro partenza. Allora sua madre gli aveva fatto vedere la grossa scatola di cioccolatini per la signora Mercier. Se la confezione della Marquise de Sévigné non fosse stata così sapientemente infiocchettata, l'avrebbero volentieri aperta per permettergli di controllare se come cioccolatini andavano bene. Ce n'erano due strati ripieni di crema e al liquore. Devono essere buonissimi, aveva detto Maurice. Allora Elia gli aveva voluto spiegare che Martial Mercier era il famoso cugino, il deputato che, lo so, papà, quello che ci ha fatto ottenere la naturalizzazione quando noi eravamo piccolini, e so anche che i Mercier, fratello e cugino, sono molto gentili a invitarvi tutti e quattro, e so che è per festeggiare il centenario della partenza a piedi da Cahors dell'Avo Fabien che rotolava la botte, e so che vi pagano delle cuccette di seconda, so tutto, papà. Allora, se sai tutto, perché lo chiedi? Aveva detto Elia ridendo. A quel punto Barsky era arrivato con la sua valigia nuova di finto cuoio che prestava per quel viaggio. Sonia non aveva voluto quella di Gromov con le sue vecchie etichette. L'aveva trovata davvero troppo sgraffignata. Graffiata, mamma, aveva corretto Maurice. Lei dice come può, aveva ribattuto Elia. Poi era andato in camera per togliersi il vestito nuovo. Maurice si era attardato altri 5 minuti in Rue de la Mare, aveva rivolto una strizzatina d'occhio a Barsky, che si era fatto servire una piccola vodka pur fingendo di ascoltare Lia che ricominciava per lui la storia dell'Avo Fabien, poi li aveva lasciati tutti dicendo a domani. Sii puntuale, il capostazione non aspetterà il signor Maurice Gutmann per darci il segnale della partenza, aveva raccomandato Elia. Alle 7:30 sul binario, aveva confermato Maurice scendendo le scale. In principio era Zazà che si doveva incaricare degli addii di Austerlitz, come li chiamavano tra di loro da 4 settimane che non si parlava d'altro, ma Zazà era partita per girare nei Vosgi. Da lì aveva telefonato a Maurice da Villeneuve: «Vacci al posto mio, ho paura che si spaventino e non se la sappiano cavare». Non bisogna mica esagerare, partono solo per 24 ore, hanno già preso il treno per venire da molto più lontano. Sì, ma era tanto tempo fa, aveva detto Zazà prima di riattaccare. Allora aveva fatto come aveva detto Zazà, aveva fatto come aveva detto Elia. Era puntuale e il capostazione di Austerlitz non aveva avuto bisogno di aspettarlo per fischiare la partenza. Alle 20:05, in punto, del convoglio numero 67 della linea Paris-Cerbère, che doveva lasciare le rotaie qualche ora dopo, all'uscita di Châteauroux esattamente alle 22:49. All'orribile, assurda e derisoria cerimonia nel capannone cementato trasformato in cappella ardente, si era rifiutato di pensare per anni. Quelle immagini, le ultime registrate prima di cadere, il buco nero nel quale era precipitato e rimasto per mesi, di cui non ricordava praticamente niente, quelle immagini non appartenevano al tesoro irridato che la sua memoria vezzeggiava, coltivava, coloriva e probabilmente abbelliva. Erano in bianco e nero, precise, livide e crudeli come un cinegiornale. Con una macchia di colore, però, il foulard rosso di Zazà legato sotto il suo mento. Zazà in ritardo, che scosta i tendaggi neri all'ingresso del capannone, in pieno discorso del prefetto. Zazà, vestita da ragazzo come al lavoro, con la cinghia chiara della sua borsa che taglia in diagonale il golf grigio, e che lo cerca con occhi da pazza e che lo trova, spinge un po' la folla in nero per raggiungerlo e che gli prende la mano senza guardarlo. Lei guarda per terra, come lui, le 19 scatole scure di legno lucido posato sulle piastre di cemento su cui cade la luce attraverso le grandi vetrate del tetto e tremolano le luci dorate di una dozzina di ceri su alti candelieri di ghisa. Per non spezzare l'armonia, 18 bare sono state allineate in 3 file di 6, mentre la 19esima è stata messa davanti da sola a prua. Il prefetto li domina, parla dall'alto di un pulpito improvvisato, rivestito di nero e frangiato d'argento, in quale... Dove sono? Chiede Zazà. Ti dirò, poi, disse Maurice. Il prefetto parla del destino, della sventura, della Francia e del dipartimento dell'Indre che sono in lutto e del Bove che è scappato da un carro bestiame e per causa sua che tutto è successo. E la sua voce risuona tra il cemento e la struttura metallica, spesso è coperta dagli arrivi in stazione e le partenze delle locomotive che non deragliano, ma quando torna il silenzio sono dei singhiozzi sordi ad accompagnare le sue frasi desolate. L'altra macchia di colore è la grande bandiera francese a mezz'asta dietro il prefetto, il quale ora scende dal pulpito dove gli succede un rappresentante del Ministero dei Trasporti. Questi dice le stesse cose del prefetto sul destino, la sventura, il bove, che chiama il bovino, parla della rete in lutto e tiene ad assicurare alle famiglie, benché l'ora non sia propizia a quelle questioni materiali, che saranno indennizzate, ancorché niente possa sostituire la perdita di un parente, di un essere caro. Vagoni di legno marcio, vergognoso, si sente, ma un fitto mormorio di «scht» indignati fa tacere l'insolente, mentre un profumo d'incenso accompagna l'arrivo di un prete seguito da 2 bambini, tutti e 3 in merletto. «Oh no!» mormora Zazà con un movimento che Maurice frena. «Lascia!» dice. Guardano fare il prete che non sale sul pulpito, pronuncia qualche parola sull'uguaglianza dei figli di Dio davanti alla morte, poi qualche parola di latino, dopodiché, con un ampio movimento del braccio, traccia un segno di croce comunitario in direzione dei 19 morti anonimi. Lo guardano ancora mentre fa il giro delle bare, pregando a occhi chiusi, seguito da 2 bambini che agitano i turiboli, e infine li guardano uscire tutti e 3 con la stessa rapidità con cui sono venuti. E il prefetto avanza con il tizio del ministero e tutti si lasciano stringere la mano. Sembra quasi che porgano dei rallegramenti, come a dei figli di eroi. Si legge negli sguardi desolati del prefetto e del sottoministro: coloro che dormono qui ai nostri piedi erano i figli e le figlie migliori della Francia. Non li dimenticheremo mai, sembrano dire. Eccoci diventati pupilli delle ferrovie, mormora Zazà dopo il loro passaggio. Maurice la guarda, è stralunata e ride. Vieni, dice, e la trascina per la mano. Eccoli, dice davanti alle 4 prime bare della seconda fila. Sei sicuro? Li ho visti tutti e 4 prima che li chiudessero. Sono molto belli. Dormivano quando è successo. Le mente dal profondo del cuore. È vero che li ha visti, già che gli hanno chiesto di riconoscerli stamani presto, quando sono arrivati. Alex, Gromov e lui nella Citroën de la Coupé, mentre Zazà attraversava la Francia nella macchina di Verdun per arrivare troppo tardi. abbastanza tardi comunque per credergli quando le ripete che dormivano, glielo giura. Ha visto anche quello che rimaneva della valigia di Barsky che gli hanno chiesto di riconoscere con il resto nel capannone accanto e non vuole che Zazà la veda, né che gli chieda dove sono le loro borsette. Non le hanno ritrovate e neanche i loro cappelli e niente di riconoscibile. Non vuole neppure che legga i numeri sulle etichette attaccate ai manici di ottone. Parla prima che lei si chini. Dice: papà, mamma, tuo padre, tua madre, ogni volta con un cenno della testa. È rimasto eretto, e anche lei, poiché lui le tiene la mano. Ora ce li restituiscono, vieni. E la tira verso la porta nera. Fuori c'è un sole bianco, e lei adesso che lo tira per andare verso Laurent, Gromov e Alex, che sono già arrivati davanti al capannone accanto, dice: aspetta. Nient'altro. Dopo non c'è più niente. Più tardi, molto più tardi, gli diranno che è accaduto, gli diranno dove e come, ma si interromperanno, si sbaglieranno, si contraddiranno. Non saprà mai se la sua testa si è spaccata perché è accaduto o se piuttosto non si fosse già spaccata prima, dall'interno e così violentemente che è accaduto sul cemento bianco. Avrà una grande cicatrice sopra la nuca. Saprà esattamente dove, perché i capelli non gli sono mai ricresciuti su quei pochi centimetri che le sue dita sanno trovare sotto i ricci che li nascondono, ma non saprà mai se gli hanno aggiustato la testa perché si era rotta o se gli hanno aperto la testa per riparare quello che c'era dentro, ma saprà che per più di un anno non ha saputo niente di sé, né degli altri né del mondo. Lo saprà perché glielo diranno quando cominceranno a dargli sue notizie, notizie degli altri, notizie del mondo, prima imbeccandolo, quando farà finalmente le prime domande e poi a grandi cucchiaiate per fargli recuperare il tempo perduto, come diranno. Allora gli diranno della guerra, saranno ben costretti in quanto avrà voluto sapere perché i vetri della sua camera bianca hanno una grata di carta adesiva color khaki. Gli diranno quando e come è scoppiata la guerra e che è stata persa. Gli diranno date, fatti, nomi di trattati, come in un riassunto di storia per insegnare una vecchissima guerra. E quando comincerà a volerne sapere di più, entreranno nei particolari con una soddisfazione allegra ed evidente, perché la sua curiosità è la prova che è sulla buona via, che sta tornando tra i vivi. Allora, a poco gli diranno tutto, poiché avrà fatto domande su tutto. A parlargli saranno di volta in volta il suo medico, Zazà, le infermiere, le inservienti, Zazà con Miriam e Samy, Zazà con la signora Villeneuve, Laurent Verdon da solo, Laurent e Zazà insieme e Samy da solo. Non sarà mai Robert, né Alex, né Villeneuve, né Gromov, né Barsky. Sono passati, ma era durante la guerra e lui dormiva ancora. Ma la signora Villeneuve gli consegnerà una lettera e una cartolina. La cartolina è datata 1 luglio 1939, viene da Londra. Con una bella scrittura rotonda dice: in memoria della nostra ultima estate, love, e ci sono tre crocette, ed è firmata Annie. La lettera è stata impostata a Marsiglia il 29 agosto 1939. Robert l'ha scritta su una carta a quadretti e appesantita da una foto attaccata all'angolo con un fermaglio. «Fratello, sono venuto a trovarti, ma ancora una volta mi hai snobbato e fatto rispondere dal tuo personale che era troppo presto e che tu stavi ancora riposando. Peggio per te, non ripasserò più a suonare alla porta del tuo castello. Come Clapic mi imbarco da solo, lasciando a mio padre, Felix, la cura e il tempo di condire, inghiottire e digerire la biscia serpente pitone che i compatrioti del tuo cugino Valodia gli hanno appena servito. Mi allontano. Così aggiungerò al suo sgomento di militante disorientato l'afflizione e la vergogna di essere oltretutto il padre di un disertore, il che mi rattrista. Ma non quanto mi rattristerebbe ricevere la cartolina che mi obbligasse a partire per la guerra che è nell'uovo della biscia serpente pitone e che si aspetta si schiuda domani, dopodomani o fra 8 giorni. Perciò ho deciso di anticipare il richiamo, rispondendo a quello del largo. Geografo e storico, me ne vado a perfezionare, approfondire e consolidare le mie conoscenze di storico e di geografo. ci sarà sempre da qualche parte un qualunque signor D per darti mie notizie e, come vedi sulla foto che mi sono fatto fare solo per te, l'occhio di chi tu sai veglierà su di me. Dormi per tutto il tempo che potrai. Robert. La foto lo rappresenta con le mani in tasca, ai piedi di un gran muro su cui si scrostano le vestigia di quello che ai suoi tempi era stato il vispo dottor Pierre. A spizzichi, alla rinfusa, senza nessuna cronologia, verrà a sapere che signora dove sia Robert, che Villeneuve è prigioniero in Germania, che la libreria è chiusa, ma che potrà ritrovare la sua camera a meno che non voglia abitare con Verdon e Zazà, perché Zazà ha liquidato Rue de la Mar già da un pezzo, subito dopo, un po' prima della guerra, e che anche la Coppé è chiusa. E Alex è partito per l'America, Hollywood, con Angelina Crespi. E Zazà e Verdon non sono sposati, no, ma Sammy e Miriam sì, al municipio del 20° distretto, anche loro prima della guerra. Miriam era già molto grossa e Lulu ha quasi un anno. Si chiama Louise, come Louise Michel. E quando Robert è andato a trovarla all'ospedale, Miriam e lei ha detto che la piccina si sarebbe dovuta chiamare Josepha Adolphine perché era nata all'indomani del patto. Quale patto? Il patto tra Hitler e Stalin, al quale in un primo momento non vorrà credere. Bisognerà che Samy gli porti una vecchia foto della stretta di mano di Molotov e Ribbentrop ritagliata da Parissoir. Pare che Félix abbia pianto. A Neuilly-le-Réal, dove è stato mobilitato sul posto subito dopo il patto, perché la guerra è scoppiata in settembre. Verdon l'ha fatta, la guerra, con il servizio cinematografico dell'esercito. Non hanno potuto filmare una sola battaglia, non ce ne sono state per mesi, niente. E quando sono cominciate, le cose sono andate talmente veloci che l'esercito ha ripiegato e hanno filmato l'esodo. L'esodo? Eh sì, c'è stato l'esodo. Tutti hanno lasciato Parigi, salvo Zazà, rimasta perché proprio in quel momento Maurice ha cominciato a svegliarsi per davvero, e Miriam perché Samy era mobilitato come barelliere all'ospedale di Val de Grasse e lei è voluta restare con Lulu e la nonna accanto a lui. Ma tutti gli altri sono partiti. Gromov e Barschi nel taxi verso il sud, i Loventhal, i genitori Nussbaum e perfino gli Stern verso la Bretagna nel camioncino delle pulci. Barschi e Gromov non sono tornati. L'Alverniata ha parlato di Monte Carlo. Gli altri non sono andati oltre Le Mans e sono tornati. Pare che la signora Loventhal in viaggio, sia pure per 3 giorni, sia peggio della grossa Berta nel 14. Ma quando sono tornati, gli altri erano già lì. E come sono gli altri? Non si sa bene. Hanno l'aria educata e tranquilla in una Parigi che è vuota. Gli rimane una seconda domanda da fare. La rimanderà di giorno in giorno, poi si deciderà. In un dolce pomeriggio, mentre stanno passeggiando da soli, Zazà e lui, nei giardini dell'ospedale. Gli altri stanno appunto passando laggiù sul viale, cantando tutti insieme e molto bene. I genitori dove sono? Non li ha mica messi a Montparnasse? No, al Père Lachaise. Sono venuti tutti, tutti quelli di Rue de la Mar, i Novak, i Benedetti, i Clément de l'Allier, i fratelli Mercier, i compagni di lavoro e perfino il signor Bonnet da Saint-Mandé. Un giorno gli diranno che è guarito e che ha ben recuperato il tempo perduto. Lui stesso si dirà che non ha perso un granché durante i suoi mesi d'assenza. Lascerà la camera bianca, il letto bianco, i veli bianchi, tutto quel silenzio bianco. E quasi a malincuore, una mattina del settembre 1940, firmerà il foglio di uscita dall'ospedale della Salpêtrière. Il suo ordine di scarcerazione, gli dice il suo medico ridendo, davanti alle due infermiere che avevano le lacrime agli occhi nel vederlo andarsene. Un'immagine davvero bella per qualcuno che stava per ritrovare la libertà. Al seguito, Maurice non ha affatto bisogno di pensarci di nascosto da Zazà. Non ha più che da scendere nei grandi fondali della memoria grazie all'acquavite di Marcel. Il seguito è ancora adesso, è da 3 anni. 3 anni che ha vissuto senza un attimo di disattenzione, senza un minuto, un'ora, una giornata d'assenza. Più di 3 anni addirittura, se rifà bene i suoi conti, sono 3 anni, 5 mesi e una settimana che dura, dall'ottobre 1940 a oggi. Ma pensa 3 anni all'ingrosso per abitudine. I 5 mesi e la settimana in più sono l'addizione dei giorni che sono trascorsi senza che abbiano avuto paura neanche un'ora Zazà e lui. Fanno 160 giorni, da quando gli altri sono saliti da Grenoble per l'ultima volta. Non risaliranno più in quel villaggio di 50 anime dove non hanno mai trovato niente di sospetto, soprattutto non nella casa del muratore carpentiere la cui moglie incinta fa scuola dei bambini sorridenti ai piedi di un grande Cristo in croce. Non risaliranno più perché sono troppo occupati altrove, dall'altra parte della montagna dove li aspettano con i fucili, in città dove li fanno saltare a colpi di dinamite e molto più lontano, a est del mondo, dove la loro giovinezza muore, sepolta sotto la neve, quella vera. Erano molto vecchi, gli ultimi che sono saliti al villaggio, molto vecchi e molto tristi. Non risaliranno più. 160 giorni di tregua, tolti da più di 1000 giornate di paura, di cui 703 passate a Parigi, da quel giorno in cui l'impensabile, l'incredibile ha cominciato a delinearsi, con discrezione e con riguardo, nell'indifferenza generale. Prima, con un semplice censimento. Orfani e senza indirizzo personale, lui e Zazà disubbidiscono, non si fanno censire e la paura comincia quel giorno d'ottobre del 1940, molto più forte in loro che in chi ha ubbidito e si crede protetto dalla propria obbedienza. Come quelli di Rue de la Mar che hanno ubbidito tutti, lo sanno da Miriam che gli rimprovera la loro disubbidienza. In Rue de la Mar sono tutti in regola, inclusi gli Stern. È stata la signora Loventhal a trascinarli con sé al commissariato perché si dichiarassero. Tutti si sono fatti timbrare ebreo sulla carta d'identità e tutti hanno la propria tessera non aria. Refrattari, lui e Zazà sprofondano nella criminalità, falso e uso di falso. Bisogna ben mangiare e senza tessera niente tagliandi. Il falsario lo trova Zazà. Incredibilmente sarà Eugène Bonnet che, battezzandoli Rue Elsa e Gauthier Maurice, nati a Saint-Mandé nel 1921 e 1919 in una via da tempo eliminata dal catasto per demolizione, assicurerà la loro esistenza legale. Conoscono allora la paura di tutti i detentori di falsi documenti, la paura di essere riconosciuti da coloro che conoscono la loro vera identità, non tanto per Zazà che tutti conoscono come Zazà e basta nel cinema e che a volte per forza di cose chiamano perfino Zazà Verdon, ma alla Sorbona non si diventa Gautier dall'oggi al domani quando si è stati Gutmann per un anno. Neanche per i clienti della libreria. È sempre chiusa la libreria, ma i clienti continuano a venire nell'appartamento a trovare la signora Villeneuve. E anche alcuni di loro hanno cambiato nome e ora diffidano gli uni degli altri. Diffidano di Maurice e Maurice diffida di loro e la signora Villeneuve diffida di tutti quanti. Non ha più notizie dalla Germania. Una sera, tuttavia, Villeneuve torna. Ha la barba lunga, gli occhiali e non si chiama più Villeneuve. E altra gente comincia a venire nell'appartamento. A volte ci dorme, spesso sono degli spagnoli, parlano forte. E con quello che Maurice sa di loro, ha un po' più paura quelle sere, richiudendo la sua botola. Zazà ha un po' meno paura. Verdun è rassicurante, ma non la sua portinaia, cui non piace Zazà per la semplice ragione che Zazà non è la signora Verdun. Neanche la signora Verdun piace Zazà, ma le piace molto la portinaia del figlio con la quale viene a parlare spesso dell'altro figlio, lui, quello che abitava con il figlio Laurent prima dell'arrivo di quella signorina in Rue de Saint-Père. Maurice si è imbattuto nella signora Verdun in conversazione con la portinaia, un giorno che andava a trovare Zazà. Il silenzio dopo il suo passaggio davanti alla portineria gli ha fatto anche più paura del rumore che fanno gli spagnoli di Villeneuve, il quale ora si chiama Bertù. Non esce mai e non ha riaperto la libreria. Comunque non su Rue de Seine. È stata anche calata la serranda davanti alla vetrina, ma si lavora dietro. Si scrive più di quanto non si legga e si ciclostilano testi che non si vendono ma che circolano poiché un ciclista li viene a prendere. Fino al giorno in cui non viene. Allora si brucia tutto il pacchetto che era pronto nella caldaia in cantina e Maurice ha molta paura quel giorno perché fa fumo in cortile, con tutto il tempo che non ci si è più serviti della caldaia per via della penuria di carbone. E Villeneuve, Bertù, parte per un viaggio di qualche giorno. E la signora Villeneuve ha paura, non lo dice a Maurice che lo vede, ma non gliene parla. Zazà lavora un po', ma ha rinunciato a essere script da quando i documenti vengono spulciati. Ormai ci vuole una tessera professionale vistata dalla propaganda Staffel. Mimì le ha detto di stare attenta, di diffidare della coppia Tata e Fefe Bubù. Il fratello di Tania è in un servizio tedesco e lei se ne vanta. Zazà si è rimessa in cerca di costumi e quando va su un set ha paura di incontrarvi i Bulansky. Ha paura anche di andare a rifornirsi negli stock della Copé, che non è più la Copé, ma è tornata a essere Maschere Bergamaschi. Gli Ziegler hanno ricomprato. La signorina Anita ha preferito andarsene a casa sua, in Dordogna. Ginette è rimasta. Anche la signorina Agnès. Ma non ha perdonato a Stepan d'essere morto, ancora meno di essere stato ebreo ai tempi in cui lei lo amava e lo credeva slavo. Allora, Zazà va a cercare alle pulci, dove non si parla più l'iddish, se non a bassa voce, talmente bassa che lei ha una scusa per rispondere che non capisce. E quando torna a casa ha paura della portinaia, ma non lo dice a Laurent, perché Laurent è allegro e forte. Ha la tessera professionale, fa di nuovo l'assistente e dice che con lui non le succederà mai niente di male. Allora lei gli lascia credere che ci crede. E lui non sa che lei ha paura. Neanche Maurice. Hanno paura tutti i giorni, ma ci fanno l'abitudine. Non è ancora il terrore. Il terrore arriva nel maggio 1941. I primi che vengono a prendere sono gli Stern. 7 mesi esattamente dopo che sono andati spontaneamente a qualificarsi davanti a quelli che fanno il censimento al commissariato di polizia del 20° distretto. Partono sotto la protezione della polizia francese con il signor Katz e qualche altro di Rue de la Mar e la signora Lowenthal dice che è perché sono stranieri. È triste naturalmente, ma non avevano che da farsi naturalizzare come lei. Del resto li hanno portati via, non li hanno arrestati, torneranno. Poiché né Zazà né Maurice vanno più in Rue de la Mar. Sono Samy e Miriam che una domenica vanno da Verdun a raccontare della partenza degli Stern. E ora è Miriam ad avere paura perché ha visto tutto. Portava a spasso Lulu per la via quando è successo. È accaduto senza scalpore, senza brutalità. Il signor Stern teneva la signora Stern per la mano, erano molto ben vestiti tutti e due. I poliziotti li hanno aiutati a salire in una camionetta all'angolo del vicolo. Quando la camionetta è stata piena, sono partiti. E la signora Stern ha fatto un piccolo arrivederci con la mano, sorridendo. E si è aspettato che tornassero. Non sono tornati. L'Alverniat è andato a informarsi al commissariato. Gli hanno detto che li avevano portati in uno stadio, i Japi, ma gli hanno detto che lo dicevano lui perché non era ebreo. Allora l'ha ripetuto al vecchio Nussbaum. Da allora Miriam ha paura e Samy la maltratta e Zazà, Maurice e Laurent la rassicurano. Deve essere un errore. Ma nessuno di loro tre crede veramente all'errore. E Laurent comincia a capire e ad avere paura perché Samy taglia corto alle loro pie menzogne. Ride francamente, ma no, non c'è stato errore, è l'inizio del programma. Gli zakuskis prima dell'arrosto, il galoppo di prova prima della corsa. È meglio saperlo e smetterla di raccontarsi storie. E la guerra, un'altra che comincia o la stessa che continua. È stato solo barelliere nell'ultima, ma in questa sarà tiratore e addirittura tiratore scelto. Ed è proprio questo che è venuto ad annunciare ai signori Verdun, Roux e Gautier, a condizione che non lo ripetano, evidentemente. Dato che ha bevuto un po' tanto, da Laurent ci sono sempre delle buone bottiglie che gli procura il trovarobe dello studio, benché ormai tutto sia razionato. Non dicono niente. Ma Miriam va a piangere in cucina dove Zazà la segue. È vero quello che dice Samy. Ha incontrato degli individui, faranno dei colpi ebrei a mano armata, come dei banditi ebrei. Zazà dice che è pazzo. Miriam la prega di dirlo a Samy perché quello che gli dice lei, lui non lo sta a sentire. Non c'è più che una persona che ascolti. Un cecoslovacco o un bulgaro non ricorda più che Samy ha incontrato alla consultazione all'ospedale e che l'ha abbindolato. mentre è fortunato, Samy, a poter continuare a fare pratica all'ospedale di Cochin. Ma quando Zazà vuole andare a dire a Samy che è pazzo, è già cosa fatta. Laurent e Maurice gliel'hanno già detto e Samy si è arrabbiato e i Nussbaum se ne vanno. Miriam in lacrime, Samy sogghignando. E Laurent dichiara che non vuole più averli in casa, che sono pericolosi. Ora già criminali, Zazà e Maurice hanno paura di Samy, gran criminale in potenza. E Zazà incontra Miriam nei giardinetti pubblici, mai più da Laurent. E Maurice aspetta Samy all'uscita di Cochin per pregarlo di non andare più neanche alla libreria. Samy si inchina con una ossequiosità caricaturale. Il signor Gautier può dormire tra due guanciali, non si vedrà Samy Nussbaum in Rue de Seine. Maurice incassa. Guarda Samy che si allontana, che va a raggiungere un individuo alto il quale lo sta chiaramente aspettando 10 metri più in là. Maurice non può assolutamente dire a Samy perché non deve mettere i piedi da Villeneuve, dove la tattica è cambiata completamente dall'oggi al domani. Con esattezza tra il 22 e il 23 giugno, il tempo di decidere subito dopo la giornata del 21, la prima della primavera 1941, quella altresì dell'inizio della guerra tra la Germania e la Russia. Villeneuve si è tagliato la barba e ha messo via i suoi falsi occhiali. Non è più Bertù, ma di nuovo Villeneuve, ex prigioniero in Germania, liberato grazie allo scambio. Prova vivente della efficacia della collaborazione, si mette in mostra nel vicinato, rialza la saracinesca di ferro, viene ripulita la facciata e nella vetrina Bergson viene sostituito con traduzioni di Nietzsche che stanno vicine al trattato di Gobineau sulla disuguaglianza delle razze. Ma i tre figli e la signora Villeneuve sono stati mandati a Tours dai nonni. Gli spagnoli si fanno sempre più rari. E quando passano sono muti. Il ciclostile è salito ai piani superiori insieme alle risme di carta e la botola è sempre socchiusa tra la camera di Maurice e l'appartamento, salvo quando si aspetta qualcuno di nuovo. Un nuovo di cui signora si abbia già acquisito il diritto di sapere che il posto possiede un'uscita di sicurezza. Di nuovi veramente nuovi non ce ne sono che due, ma ci sono dei redivivi di prima della guerra. I redivivi hanno fatto i morti dall'estate 1939 alla primavera 41. I redivivi sembrano usciti da una lunga ibernazione, da qualche ritiro solitario per pene d'amore, per il tradimento dell'amato bene. Hanno il perdono nell'occhio, la mansuetudine e l'indulgenza di chi ritrova un'amante adorata dopo un'evasione che sapevano bene era solo una scappatella. I redivivi sono tre, hanno una quarantina d'anni. Anche i due nuovi, ma loro non hanno mai ibernato, non amano l'amante adorata dai redivivi, non hanno mai sofferto del suo tradimento, ma poiché odiano i tedeschi, non meno di quanto i redivivi odino i nazisti, non vedono obiezioni a un'alleanza, almeno per il momento. I redivivi hanno spesso il sopravvento nella discussione, perché hanno le loro truppe che sanno dove trovare e che, da quanto assicurano, scalpitano di impazienza dal novembre del 39. I nuovi, invece, cercano di reclutare. È più aleatorio e ne convengono. Tutti si riuniscono spesso e parlano moltissimo. Se Maurice non avesse tanta paura, si divertirebbe, come ogni marmittone, a sorprendere delle conversazioni da stato maggiore. Ma nella doppia vita che per ora deve vivere, si busca una doppia paura. Paura di sopra mentre fa funzionare il ciclostile, paura di sotto mentre guarda Villeneuve conversare amabilmente in tedesco con dei giovani soldati che, confondendo libreria e cartoleria, chiedono cartoline illustrate di Parigi. Ancora più paura quando dei civili gli chiedono veramente Gobineau e lui glielo tende e loro lo prendono, lo pagano e se ne vanno con un sorriso complice. E non meno paura dello sguardo sprezzante del calzolaio accanto, del fiorista di fronte, la mattina in cui ha cancellato il collabò scritto col gesso durante la notte sullo sportello di legno della porta vetri. Paura, infine, di quel viso che viene regolarmente a incollarsi alla vetrina per guardarlo al di là delle opere esposte e seguirlo mentre si sposta all'interno della libreria, tanto da paralizzarlo nei suoi gesti più comuni. Fino alla sera in cui, Nell'ostinato guardone riconosce l'uomo della coppia di Cherami, l'uomo solo, senza la moglie ebrea, che ha capito che Maurice lo ha finalmente riconosciuto e che indica i libri, scrolla il capo, fa un piccolo applauso con la punta delle dita, sputa sul vetro e se ne va. Non tornerà più. E Maurice lo racconta a Zazà, ma Zazà non ricorda più bene quella serata da Cherami. Ce ne sono state tante prima della guerra. Anche lei, del resto, ha da raccontare qualcos'altro di molto più importante e di oggi, e che fa molta paura.